Sveglia ragazzi, forza! Hola. Hola. Chi è? Claudio, Franco. Ciao Franco, beh. Sta facendo con la telefonata. Proprio potrebbe essere a parlare. Non venire, no. Stazionaria, zero. E la pentola c'è attaccata? No, l'alimentatore c'è vicino. Sì, ma poco lo fa. Poco lo fa, non lo fa tantissimo. E beh, è terminato. L'ho allontanata un po' dalla facciata, l'antenna con una staffa, però è sempre in mezzo a due pompe di calore, probabile che sia quello che mi disturba, quelle scariche che prende dalle pompe. Sì, ma è proprio, io ho un orecchio molto sensibile, non è tantissimo, capisco, è appena. L'ho accorciata leggermente, e ha migliorato parecchio, però ancora vuole qualche millimetro in meno, perché accorda sempre meglio sui canali alti. Devo trovare ancora il bilanciamento, dai, per essere a centrobanda, però c'è tipo 1,2 ci aveva, dammi. Ma agganciatoci. No, da qua. Agganciatoci. Adesso no. Adesso no. No, liscio liscio. 20, ne saranno 20 adesso. Da ieri a oggi hai recuperato altre 5 dB, 9 più 10 sganciato, 9 più 10 sganciato. Capito? 9 più 10, cos'è che hai fatto? Ciao Gianni. Ciao Claudio, scusa Gianni, sì, l'ho allontanata un po' dal muro, quindi ho messo una staffa, quindi non tocca più quella staffa in ferro che c'avevo sopra di me, è lontana circa 60 centimetri, dai, l'ho allontanata. E quindi adesso diciamo che è libera dal ferro in vicinanza, però è sempre a un metro dal muro, da un metro e mezzo dalla facciata, anzi un metro, dai. Non la toccare, no, te l'ho detto io di sganciarla da quella staffa. Sì, 9 più 10, ieri 9 più 5, piano piano arrivi Ganteggiani. Va bene Fra, lasciala così, 9 più 10 liscio, pensavo che l'hai agganciato, aggancia a vedere. Subito provo, perché non ho provato ancora con la scarpa. Ah, in più l'ho accorciata di un centimetro, però ancora mi accorda meglio, ha migliorato tantissimo, però mi sa che vuole accordato un altro po'. Guarda, sei 9 più 10, adesso ti faccio parlare, aspetta, prendo il telefono, riprendi già, così ti faccio un video con e un video senza, così ti accorgi quanto stai arrivando qua, perché magari poi non ci credono, capito? Sei 9 più 10, mi arrivavi Santiago 8, vedi tu, riprendi già. Da me è 9,30, e ieri era 9, Santiago 9,5 mi pare. Posso accordare, dai, un attimo. Già non fai tetto, tu sei troppo vicino. In lontananza qua io ho notato differenze allucinanti. Adesso lo faccio parlare, lo faccio un video senza lineare e poi con lineare. Si attacca lineare e arriva, non so, vediamo. Si arriva a quanto è te. Sì, sì. Aggiunto, agganciato sì, aspetta che preparo la telecamera, quanti giorni ti arrivano, parla. Così alla numero uno, dai, mi sta dando 70. 70 watt, e sei 9 più 20, quanti giorni ti arrivano, così hanno 9 giorni, c'è l'antenna sopra il tetto. Adesso fai un altro passaggio sganciato, e così vedi la differenza. La prima foto è agganciato, la seconda foto ti faccio sganciato, prova. È che devo accordare, capito? E vabbè, la lascia stare così, non fottete. Comunque sei 9,10, 9,20. Capito? Passi a 9,10 e 9,20, adesso te la mando. Così è la seconda, vedi un po'? Ancora più alto, sì. Faccio una prova a manetta e basta, dai. Vedi un po', 1,2,3, prova. Appena di più, ma ti conviene usarlo alla seconda potenza, sei 9,20 pieno, ottimo segnale. Così la prima, dai, penso che sia l'ideale per disturbare anche poco, oppure addirittura niente. Bene, va bene, lavoro vecchio, ascolta, si mette il trattore, gliel'hai lasciato, gliel'hai tolto? Adesso non c'è. di più ci mette il trattore? No, c'è un QRM un po' alto, non so se sia le pompe di calore, l'ho tolto. Ok, vabbè, quindi non c'è più bisogno. Beh, volendo posso fare due giri e vedere se scendono ancora, però ha migliorato tantissimo, sicuramente è ancora un po' lunga, qualche centimetro forse, o c'è la facciata di un centimetro. Allora non la toccare più, lasciala così, già va bene, uno e due stazionari non sono niente. Sì, l'ho provato anche a mettere la diretta al baracchino, un po' più dell'uno, dai, uno e due, uno e tre, senza niente, liscia. Ho capito, lascia stare così, già va bene. Sarà buona questa antenna, non sembrerebbe però. Se te l'ho detto. Trapponato, va bene. 9:20, quanti giorni stai arrivando? Attaccato però, tu sei attaccato però, considera che tu c'è l'antenna e poi giro c'è la sul petto. Quindi la tua forse per me è meglio della sua, non lo so, forse sono più diretto. Va bene. Le prendi già? La mia li va bene. Ma cosa hai fatto? Con la canna da pesca l'hai fatta? Oppure con qualche tubo di resina? Una canna in resina da 8 metri. Ah, ma è tutta unica oppure anche tu? Come si chiama? Telescopica, no? L'ho allungata, gli ho disteso tutta l'antenna sopra e gliel'ho vulcanizzata sopra, dai, esterna, quindi corre sopra la canna esternamente. E il cavo l'hai fatto passare dentro? No, esternamente. E cosa l'hai messo? Il cavo l'hai messo? Allora, l'antenna è fatta con RG58, poi c'ha, come si chiama? Quello spezzone, il primo spezzone che trovi è 1,80 m, quello in R213, se non sbaglio, e anche sul condensatore in R213, e poi l'ultima parte invece è in cavetto da 2,5 filo elettrico. Ma io ho dato mezzo centimetro, l'avrei abbassata. Accorciata? No. Magari ti dà proprio uno. Non c'entra niente, già, uno e due non sono stazionarie, lascia le cose così, poi magari vai a peggiorare. Non è detto che può essere quello sia il punto migliore di riflessione. Cosa sono uno e due stazionari? Non sono niente, con la correttore così inserito va bene. Mi sposto in un canale che è all'accordo senza niente, liscio. Ok, rimane staccato, rimane, 9:20. Prendi canta a te. Col pepe attaccato però, vabbè, deve recuperare lui l'altezza, deve recuperare il fatto che tu c'è l'antenna sul tetto. Bel segnale, 9:10, con l'antenna così, ottimo, arrivi a Santiago Setti, otto. Mi pare non conviene più a comprare antenne, certo quello che stanno facendo si sentono a cacca, hanno problemi di quelle... Ma 5 si stacca il filo, questo e quell'altro, te la fai tu direttamente, quando si fa c'è la vettuaia, certo, l'unica è quella. E vabbè, perché si stacca il filo, a me non mi si è mai staccato, ne ho comprato 10 di Mantova Turbo, cioè di Mantova 10, oddio, 4, nessun difetto io ho mai avuto. Non ho mai avuto nessun difetto, io ce l'ho amato da uno, grazie a Dio, uno rapporto a uno, nel senso che, no, uno è uno, uno rapporto a uno, vuol dire, manco ci muove lo strumento, stiamo parlando dello strumento della Kenwood, non stiamo vedendo lo strumento della ZG, manco ci muove, stazionarie dirette, senza correttore, senza niente. Al correttore della radio staccato, disinserito, io, questo l'ho fatto io, lavoro fatto da me, non ho mai avuto problemi con la Mantova, non manco con la Mantova Turbo, andava benissimo, è che poi ho perso tutti i radiali, mi sono rotti tutti i radiali, dai piccioni alle cose, perché l'alluminio non flette, spezza, erano piegati, quindi mi sono rotto le balle, Fabrizio che si fa per fare una verticale e mi sono comprato l'auto da uno. Avanti fra. Capo, ma si trova ancora in commercio? Le Mantova, non lo so, a me me l'avevano portata da Mantova proprio, un camionista che era lì, me l'avevo attare, me l'avevo portata da lì, capito? Si trova proprio a Mantova, mi avevo detto se mi serviva l'antenna, e l'ho detto prendimela immediatamente, l'avevo pagato 80 euro in stabilimento, 80 160 euro 2. Capo, un po' focata è la foto, però si vede che sono sul 9.10, così. No, 9.10 sì, adesso, se vuoi te la mando, quello è 9.20, non è 9.10, è 9.18. Però quando parli va 9.20. Ah, quindi 9.30, quello che il primo che si vede è 9.30, la prima attacca che viene, diciamo, con i numeretti su. Allora c'è il 9 che è in bianco, poi la striscia in mezzo è il 9.10, poi l'altra dove c'è scritto 20, quindi tu stai toccando il 20. Ho capito, 9.30, poi c'è il 9.40 e l'altra vuol dire 9.60, no, è un po' sfocata, non la vedo bene. Ma ci sono i trattini, 9, poi c'è il trattino 9.10, poi trattino in alto 9.20, c'è scritto trattino in alto 9.40, trattino 9.60, praticamente i trattini sono i 10, capito, del 4.40. Dai, ho fatto un bel salto in alto, con la canna da pesca. Hai pescato bene, adesso secondo me arrivi da tutte le parti tu, vedrai. Oddio, falla uscire un pochino di più e staccala da quella basetta in ferro, perché da fastidio, capito? Da fastidio. Va bene, va bene. Avanti Gianni, riprendi. È l'unica messa là sul tetto, Flavio, una da tutte le parti, è libera, è un'antenna che non dà fastidio, se non è che fischia col vento, perché la canna da pesca solitamente quando lascia fischia, se non è che dà fastidio il fischio. Che vada in risonanza, ma un pezzo, perché c'è il cavo attaccato, c'è molta roba, tipo un nastro vulcanizzante, non dovrebbe vibrare, beh. No, col vento fischia proprio, fa il fischio brutto, perché la canna, per dire, quando tu fai il lancio, come va su, si sente brutto quando c'è il vento che fischia, no? Sì, ma quando lanci, tu lanci a 200 all'ora, mi? Sì. Sì, tu calcola il piombo quando va via dalla, diciamo, dalla canna, esce a 200 km/h, forse anche di più, non vuoi sbagliare? No, Gianni, ho fatto vedere anche l'altro giorno un programma televisivo di pesca, e tu esci mica oggi, ma più mi grandi quando lanci è una piomba. Il fatto che lanci anche 180 metri, può darsi che sia bene. Pensa che avete parlato in due all'inizio, c'è gente che lancia oltre 200 metri, cioè che chi fa lancio tecnico, lancia col pendulum, col pendolare, con mulinelli rotanti, va bene, quanto vuoi, però passano i 200 metri. E vabbè, quelli che fanno la scuola proprio per il lancio, già lo so, ce ne sono due al settimo pettine che fanno sempre le orate, perché arrivano in un posto dove lo chiamo l'autostrada, che è un canale dove praticamente 200 metri dalla riva, 150 sarà 200 metri, e loro ci arrivano perché fanno scuola di lancio, me l'hanno detto loro che fanno scuola di lancio, c'erano cioè delle camicie al campo. E hanno preso 4-5 orate, quando sono arrivati ne erano 3, ne hanno preso altri 2, figurati, una razza, ce l'ho buttata in acqua, una razza enorme, hanno preso un po' di roba, perché in quel canale dice che passa un po' di pesce. Oh già, sì. Tu non sei andato a Platamona, io non sono riuscito a portarla via avanti ieri, però l'ho lasciata nella spiaggia, giù mi dato una balena, io via al lancio. Una balena c'è Renata a Platamona, non l'hai vista a te giornate, però l'ho presa io, l'ho lasciata lì, non ce l'ho fatta a trasportarla, trasportando il camion, dovevo fare tutta a sapone, capito? No, non l'ho vista Claudio, è la prima cosa che c'è. Ah, c'è lì perché nel frigo non ci stava, Allora, mi l'ha mandata Cosio, se vuoi ti mando la foto. L'ho lasciata lì, io già devo fare. Non è che posso. 17 metri mi pare che sia una cosa del genere. Una bella bestia, no, una razza l'ha presa anche mio collega l'altro giorno, infatti ci ha buttato 300 metri di lenza. Se l'ha portata via tutta quanta, non è riuscito a fermarla. Non so, no, ma già ce n'è gente che sa lanciare al vero, fidati, non è quello il problema. Sì, ci vuole anche la canna buona, non è sempre fatto di lanciare, ci vuole anche una canna che ti dia la possibilità di farlo. Io ne ho preso, guarda, ne ho preso una addirittura che quando l'ho presa sono tutti quanti avvicinati, c'era la melma sopra, immaginate che era avanti, però facendo pesca subacquea l'ho presa, e le altre le ho prese con la canna ma più piccola. che carichi 200 grammi come niente. Ma c'è stato qualcuno che voleva entrare, chi è? Sento qualcosa sotto poco fa. No, questo è un balenotto, lo mio, già non è una balena. Può essere quel maestrale, quei giorni di maestrale, la spinta nella sabbia, si è arenata, poverina. Vabbè, comunque, è lì, sono recintato adesso. Vorranno portarla via. Ti ricordi tanti anni fa che l'avevamo portata su un tir agli punti? E all'inceneritore. Io ho visto a fermo lì dove c'era la pedina agli punti, più o meno dove c'è il semaforo adesso, mi, agli punti, un po' prima della nuova Capolino. Sì, lì c'è l'inceneritore, c'era perlomeno. E non lo so, però ci stava dentro il tir giusta, io ero piccolo, ma me lo ricordo ancora, che ancora sanguinava, mi ricordo che aveva delle ferite dove usciva del sangue. E quella è quella che aveva preso, era già morta, però capito. Quella l'aveva preso lì di Cadernate, mi sembra una cosa del genere. E poi la corrente l'ha spinta a riva, questa si è proprio arenata e è morta nella sabbia, perché se non stanno in acqua non ha segni di colpi, capito? Allora io quello che ha preso la nave l'ho anche toccata, l'hanno portata alla discarica di Monterraggio, non l'hanno portata al subito. L'hanno portata a Monterraggio, quello che l'ha preso è quella tua, la nave. E era praticamente aperta dal basso. Addirittura l'hanno dovuta tirare con la gru perché era tutto incastrato. E che anno era, ti ricordi? Qualche anni fa? Sì, non me lo ricordo, io sono l'abita che non vado più lì a Monterraggio a buttare il cartone perché per non avviarcelo, quindi non vado più io, e quello che non si guida. Comunque, tanti anni fa, non è adesso, non ti parlo, ti parlo di la decina d'anni fa. No, io di più, io ti parlo di almeno 40 anni fa. No, io ci sono 36 al lavoro, figurati, non puoi essere. E allora è un'altra balena. Devo essere mobili. Allora, quell'anno lì avevano bloccato via Ettore Sacchi, però Frassi dopo no, non può essere, ha ragione Gianni, perché ero grande, stavo rientrando dall'Enichem. Ero all'Enichem e facevo sempre il giro lì della Marinella, perché ci prendevamo il caffè lì da Secchi, allora c'era Secchi il Cormorano, non si chiamava Cormorano, si chiamava i Dragoni. E uscendo proprio dal porto c'erano i vigili urbani con i carabinieri, avevano bloccato via Tre Sacchi perché stava girando questo tir grande da portare appunto via, e c'era questa balena tutta un po' maciullata sopra. Era un tir della Transportorres, figurati tu Gianni che lo stava guidando Bartolomeo. Sì, infatti è un po' di anni fa, quella che ho visto io alla discarica l'ho anche toccata, cioè proprio l'hanno scaricata quando c'ero io e quando è tanto non sono fermato a vederla, e l'ho vista proprio da vicino, ma è un animale un po', mira, una stranezza la balena, non è indefinito. Infatti non... Tutti curiosi sono andati a vedere, no, ma mi dava fastidio, non è anche se c'era un delfino morto in spiaggia, mi dà fastidio, assolutamente. Io sai quante volte nella zona dove lavoravo mi sono fermato a spostare magari un gatto appena ammazzato, messo le quattro frecce, preso per la coda e messo in cunetta. Un cane una volta con mio collega abbiamo spostato lo stesso prima che lo macellassero. Sono cose brutte da vedere, non mi piace a me. Io se non c'è odore, tranquillo, ma se inizia ad essere già un po' in decomposizione ne caccio anche l'anima. Mi dà fastidio. No, tra me mi è successo un paio di volte, ma erano appena stati ammazzati, capito? Stati presi. E quindi ci siamo fermati, un mio collega l'abbiamo preso e spostato nella... Ci siamo seguiti i lati, ci abbiamo spostato nella cunetta, in modo che insomma... Non lo maciullassero, perché vedere un cane maciullato nella strada è una cosa così brutale, così vergognosa, che secondo me non succede niente, può succedere, purtroppo è un cane che se c'è un microchip c'è un cattetturi. Sì, sì, sicuramente quello non si è neanche fermato. L'ha investito e è andato via. Ma il collega mio ce n'era la caglia, gli si è filmato, ma si è fatto 7.000 euro di danno. Hai sceso il buono, anche ma già matto. Alle 10 notte ce n'era la caglia, capito? Ha preso un cinghiale, ha attraversato un cinghiale la strada, ha saltato proprio la strada, se l'ha vista la l'ha preso col fianco. 7.000 euro di danno ha fatto. Però lì sono intervenuti i carabinieri, la stradale, è intervenuta la guardie forestali, capito, foto, tutto, ha fatto tutta la verbalizzazione, tutte le cose, ha mandato tutto alla regione, ho preso che l'abbiamo pagato, non gli hanno dato tutto il danno, comunque l'85% però, va bene lo stesso. Geniale, ho seguito, l'ho bloccato. Quale? Te lo ricordi quello sulla BDB di chi ho seguito, l'ho bloccato, perché ho visto il cane che stava andando. Aia. Aspetta, state parlando in due, davvero non capisco niente, c'è una radio fortissima. Cosa hai detto già? Sì, mi ricordo che avevi. E già mi è successa una cosa del genere, mi racconta la Franco, vedi. Stavo scendendo a lavorare, ero sulla Buttibubbi, questo qui praticamente il cane andando a piano, dice, proprio il potere pistano 15, ma era lontano, lui invece era distratto, l'ha preso in pieno e il cane è caduto nella strada, era rotolato. E qui ha continuato ad andare, allora l'ha bicicletta e l'ho fermato, l'ho tagliato la strada e l'ho fermato. Ho detto, se sei morto in gamba, se torni indietro lo raccogli quel cane che ha investito. E se c'è qualche cosa adesso lo fai soccorrere, perché se no ti chiamano i carabinieri. Ho detto, guarda che io sono un ex poliziotto, ho detto, vabbè, piacere. Io sono il genero del maresciallo Lado, ho detto, qualche cosa, ah, maresciallo Lado era l'ufficio con me, sì, ma non c'entra nulla. Preda che mai io c'ho un appuntamento, ma a me non me ne frega nulla. Chiama. E avevo chiamato la radio, dice cosa avete anche la radio? Sì, abbiamo anche la radio. E ho chiamato a Claudio, ho detto parami qualche duro, le guardie, aspetta un secondo che c'è il telefono. Sì, sì, no, è capitato a tutti, una volta ne ha preso una Uri, però fortunatamente ho cercato di prenderlo con il centro della macchina, l'ho, diciamo, l'ho messo in centrifuga e basta, non gli ho fatto, si è visto che si è alzato ed è andato via. Sì, vabbè, si è alzato, però qualcosa sicuramente perché la tua macchina è alta e quindi è passato sotto. Ma lì che l'ha fatto un colpo globo da urti, sicuramente l'ha spezzato qualche costo, l'ho fratturato qualche la zampa, eccetera, ed è rimasto lì, capito? Passa un'altra macchina e lo gattegheggia dello tutto, capito? Perché siamo a questi livelli. Siamo intanto un animale, diciamo un animale sei tu. Tu sei un animale, capito? Subito ho chiamato gli amici, subito dalla zolfera sono scesi, non lo so per cosa è successo, ma già l'hanno soccorso il cane. Certo. No, non ero con la macchina, ero con la Passat, allora c'era la Passat, quella bianca, non so se ti ricordi. Sì. E vabbè, già è alta. Non molto, già non era molto alta, però meno male, però ultimamente sotto era in plastica, la spoiler, da. L'ha fatto rotolare, ho visto poi che è scappato correndo. Va meglio così. Ma questo è rimasto nella strada, capito? Se passa qualche macchina lo gattegheggio. L'ho ammazzato del tutto, invece così Gianni ha avuto la prontezza di chiamare i soccorsi e abbiamo fatto subito quello che c'era da fare. Avete fatto bene, dai. Sì, comunque anche tu hai aumentato leggermente di segnale, se non sbaglio anche Gianni addirittura mi sta arrivando sul più del 30, ma anche tu ci sei vicino, sei molto vicino. Sì, vabbè, ma Gianni ce l'hai attaccato lì. Io sono molto distante da te, ma deve essere qualche watt, perché vedo sicuramente l'antenna, io sono 10 watt, sempre uguale, così scala 20, vediamo. 10 watt, sì, 10 watt, 20 watt. Sì, quando moduli arrivi al più del 30, prima del 30, va? Figurati, senti allo 5 mi sentivi. Ma roba da matti, sembra impossibile. Già impossibile, te l'avevo detto che rende più di una matta qua quell'antenna, se la metti sul setto guai. Anche tu sei oltre il più. Lo so, anche tu. No, una bomba, io quando è che la finiamo questa antenna? Se ti serve una mano? Quando vuoi. Come ti senti, come stai? Come stai, ti saluto, ho detto, si informa, sì. Sì, così. Hai tutto, la corrente c'è, cioè, tutto. io ci ho tutto già, l'ho finita, vuole metterla solo nella canna da pesca, dentro la canna da pesca vuole mettere. E ce l'hai la canna? C'ho tutto. Ma tu la vuoi mettere all'interno, la vuoi mettere? Io l'ho messa fuori, esternamente. Sì, ma non gli fa niente, la metti fuori o dentro, non gli fa niente. No, perché nell'ultimo pezzo no, non sarebbe passato il cavetto, capito? Perché la canna è da 8 metri, no, ce ne vuole una più lunga, da 9 o da 10, in modo che togli l'ultimo pezzo e fai uscire da quel foro, a posto del cimino, fai uscire il cavo. Segnalone c'era Franco, da lì. Vabbè, tu sei con pochi watt, tu sei 9,5, lui è 9,10. 9,10 mi sta arrivando, anche un pesce. Senta cos'è, ti arrivi via prima. Ma te gliel'avevo detto, fai questa antenna così. Io pensavo che non ne volesse fare, se no io pure c'ho il progetto, c'ho le misure, c'ho tutto. Le ho prese da internet qualcosa, mi ha mandato Giulio, comunque erano simili alle mie, anzi erano uguali alle mie, le misure, più o meno a grandi linee le ho rispettate, poi non ce la fai, quando fai le saldature qualcosa ti frega un po', da. No, perché io le ho fatte giuste. Hai usato piastrine in bachilite? Non ho usato piastrine, no, ho spellato il cavo senza tagliarlo e ho collegato il tutto. Ti sei appentato, più di me. E vabbè, io per la prima che ho fatto, come primo esperimento, la giocata così, qualche errore l'ho fatto, ripeto. Ma se il risultato è quello, se tu li togli tutti gli ostacoli, muro e chi so chi è, sai cosa fa quell'antenna? Non so, non so di dirti con i vecchi, con quella. Sì, sì, no, diciamo l'80% dell'antenna è attaccata al muro, sporge su un metro e mezzo oltre la grondaia, però la falda del tetto tende a salire, quindi no, non passa all'altezza del treno, diciamo del tetto. Quella è radia a metà, dove c'è quello spezzone lungo di RG213, dovresti liberare almeno quello. No, no, quello rimane 3 metri sotto il tetto, là, forse anche di più. Se quello lì lo togli fuori dal tetto, ne vedremo delle belle. Perché quella è radia a metà, l'antenna, capito? Dove c'è quello spezzone lì? Sì, ho visto che fa tipo un arco in tutti, perché è omnidirezionale, e quindi fa un arco in giro in giro. Quello lì, se è libero, gli arrivi 9.30 a Claudio. Quindi che è l'attacca ai 9.20, 9.20 arriva, 9.10 liscio, arrivi quanto arrivi Graziano arrivi 9.10, no? Con la manta con la manta a Bittulia, quindi. Chi è Graziano? È uno che abita lì alla Teloccia, non so chi è, non lo conosco, però il segnale suo è 9.10 qua. Dico un riferimento per dire, no? Capito? Più di uno ne arriva a 9.10 qua. Però c'hanno tutte le antenne sul tetto. No, no, va bene, dai, sono veramente contento, sono soddisfatto, un piacere quando le cose vanno bene così. E poi la radio che c'è, bellissima, fortissima. Come l'hai mai arrivata tu? Mi hai detto di mettere tutta la manetta ed è sempre così. Ah, ce l'ho fatto così che va bene. Oh, yeah. Ancora non ce l'ha mancato nessuno ancora qua in zona. No, non è un'antenna che disturba. Il mio tarino quella deve mettere. Adesso ci vedrà. Gianni, sei rientrato? È la fanata longa? No, no, sono qua. Sto sfogliando alcune cose sul telefono. Dai, riprenditela. Dai, vista già la mia pescata, sì. Buonasera. Già. No, già. Buonasera, ben sentito. Già, l'hai vista la mia pescata? No, non sono andata ancora, adesso guardo, perché c'è una cosa più interessante, sto leggendo. Partita. Così, allora leggi prima, poi va a vedere la mia pescata. Adesso vediamo se domani me la portano a casa, la metto qua nel piazzale. Ho avuto due patrizi a Saboni. Vabbè, anche mi leggo quattro messaggi che mi sono arrivati, dai. Leggi, così io vado dalla macchina a Filippo, leggi. Andata lì. Oi. Da quanti metri è la tua canna? 7 metri. 7 metri è cosa? Devi mettergli qualcosa sotto allora. cacio, pezzi di canapa pesca per prolungarla. Se no non ce la fa. Io invece come si chiama il balun? Il balun l'ho messo a un metro dal manico, dai, da sotto, dall'impugnatura. E poi ho sfruttato quei 7 metri per tutta l'antenna. Comunque io l'ho già provata anche senza. L'ho messa dentro la canna da pesca e l'ho tirata fuori dalla finestra per provarla. E beh, con chi hai parlato? No, per regolare le stazionarie, non ne avevo stazionarie. E allora l'hai beccata proprio al millimetro? Eia, per tararla io lo so cosa faccio, vado in piazza dei segni, la piatto su un piedistallo e me la taro. È una zona aperta. E allora mi pongo al centro, un chilo, e me la taro. Sì, va bene lì, ho Monte Bianchino qui. vado con la macchina lì e la taro, non c'è problema. E dopo me la piazzo sul tetto. È una bomba, è veramente una bomba, tu. Ripeti Gianni. Ehi Gianni sta leggendo. Ma se Giulio è nelle stesse condizioni tue, l'ha appoggiata in terra lì l'antenna. E sta uscendo così, non è sul tetto quella di Giulio, se non lo vedi a Giulio come esce. Sì, ma l'ha detto che il tubo parte da terra, dai, non so quanti metri sia dalla. Però non è chiusa come la mia, qui io ce l'ho proprio attaccata al muro. Adesso lo ricevi, prima non lo ricevevi se ti fidi a Giulio, non ricevevi a cosa, come si chiama, a quello di muro, a Gianni. Non sentivo niente, ero proprio sordo come una campana, mi davano fastidio a volte, preferivo andare via perché non puoi stare così, quando non li senti, almeno l'80% li devi sentire, invece non sentivo nessuno, a parte voi 3 o 4 che siete qui vicino a me. Giulio mi arriva, Santiago Nove, e tu, figurati che prima faticavo a sentirlo, faticavo a capire qualcosa. Sì, io oltre il più del 30. Noi siamo vicini, io questo strumento non so se è giusto, l'ho tarato così, che prima non segnava nulla proprio. Ehi, anda bene. Andrà bene meglio, io sono con due watt, sono 2 watt, là. Io sono 20 invece, me ne stanno 20 questo apparecchietto qua, l'avevo un po' pompato, dai, scacciavittato come si suol dire. Sì, se lo metto io questo a 20 watt, cazzo, faccio ballare il computer a quello di vicino. Fai un passaggio, vedi, capiti, senza parlare, dai. Mica, sai come si crea il silenzio? Proprio ammazza tutto il QRM, si sente proprio la radio pulita pulita. Va. Però questo è 50 watt. Aspetta, mi sta chiamando la signora, prego subito. E quindi? E quindi poco fa me l'ha fatto mettere a 20 watt a vedere come gli arrivavo. Ha subito abbassata qui. Oh, ella. Lo stava chiamando la moglie, Franco. Cappa, cappa. Ok, ya va bene. Quanto ti arrivo io se lo metto a manetta? Quanto ti arrivo se lo metto a manetta? La manetta mi arrivi 9,25, quasi 9,30. Dimmi tu. La lanterna che c'hai adesso, eh? Lo so, ed è bassa. Ya va bene. Ya va bene, ya va bene. Capito che ci sono i batteri. Aspetta un attimo, dettagli, un secondo solo, eh. Ehi, dove ti senti? Tutti a nanna, io mi sono allontanato perché tra un po' mi sa che devo uscire a fare una commissione. Mi hanno chiesto la mia collaborazione. Dimmi se vuoi aumentare la radio, qua. La radio è molto cupa. Aspetta che adesso l'ho chiusa, così come va? Così va bene, c'è già un tono alto. parlare il controllo buono del radio. Chiedi a Gianni se c'è silenzio lui. Gianni, come va del radio? Gianni, anzi c'è QRM Santiago 7 adesso, deve essere messa in moto con la pompa di calore. Ho capito, ma io lo supero il QRM anche con questo c'ha 8 watt, va bene? Sì, segnale alto. Va bene. Ok, no, mi avrei attaccato anche la 48, così. Per fare due chiacchiere usiamo questo, poi quando necessito attacco l'altro. Poi il segnale si muove da tipo da 9.5 va a 9.10, poi ritorna a 9.5, poi a 9.10. Non so se è normale. Non lo so, se è normale per te, io non sto toccando niente, i pelle sono attaccati, il commutatore d'antenna c'è, ma è la T230, quello della chiusa. L'ha fatto di nuovo, anche adesso ha fatto uno scatto, tac, e sale un po' di più e poi è risceso. Non vedi tu se i watt stanno cambiando? No, i watt sono perfetti. Forse quello del USB, non lo so. Come si dice, i picchi positivi, non lo so. No, è proprio importante silenziare. Fare gli scatti e sale di 0,5. Dai, vi lascio, devo fare una commissione. Se ci siete, riprendo dopo. Là. Ok, clà. Va bene, d'accordo, dai. Natali, da te stabile il segnale. Eia. E allora è da lui che c'ha troppo QSB. Ascolta, la radio va bene, lo aumento ancora? No, già va bene. Ok. Andavè. Vabbè. Che cosa ci vuoi fare? Vai. Fate la seconda volta che mi fanno alzare dal letto, perché il telefono, scusa, non rispondere. Aia. E non lo so così di convegno. Riguveni cosa? Riguveni in classe, sono contro un letto. Ah, ma... dove balla so? Ascolta, sto usando il 48 con più 5, come va, bene? Benissimo. Ok, sono contento. Dai, ma non siamo anche io, un baracchino. Fare due chiacchiere già va bene anche il baracchino, come dice qualcuno. Ho già vista la bevi, la Glock, quella austriaca, quella che uso al campo. No, vada per... già, dai, va bene, stavo mettendo a posto qua. Che tipo che fa? Già. Dimmi. Ma cazzo? Non ho capito, cazzo, c'è, ma io non riesco a comprendere l'altro lato. Io ogni volta che attacco la 48 non lo fa apposta, cazzo. E sul canale 23 non capisco niente. Cosa hai detto? No, aspetta che cambio la radio, una cosa vicina. Cosa hai detto, già? Perché stai facendo così? Allora se lui se scende mai, Maria Cano, io non ti sento nel radio, sei tutto a scariche, cos'è, la batteria? Guarda, non ti ascolti, dovete sto mangiando. Sì, adesso stai facendo la sì, che ha mangiato fritto. E adesso, guarda, sicuramente non la faccio la porta. Sicuramente sì. No, adesso già va bene. Non si può adoperare dalla 48 città, è allucinante. Dice Maria Gara che è roba dei golpi. Sono quello che ha fatto qui. E anche io quando passo qui sulla casa di Maria mi splatta, tutto mi allontano qui dei nostri. Però se passo lì intorno, quando stanno parlando, non riesco a capire un capo. Lui, Franco. Ciao Gianni, ciao Claudio, avanti qua. No, si è bussato, non sentivo Gianni, che c'è Antonello 23, stavo usando il baracchino, era giù giambato un chicco. Ora perché non sentivo niente, figurati. Ciao, buonasera Fra. Ciao, ma aspetta che sto uscendo io, prima era Gianni, che non uscivo. Avanti Gianni, buonasera. Ciao Fra. pezzi di radio già, non so se il se la batteria che cos'è, boh. Sì, la batteria. La batteria che ha fatto a tutti, eh. Io non so se ci arrivo lì a su. discrepo è Claudio, perciò sono discrepo, già lo sai. Sì, vabbè, fa vedere se non so, subito. No, da qui non parlo solo consorzio, già lo sai. Consorzio con i punti, puoi parlare con San Giovanni. Con Santa Teresa, cosa che tu non arrivi. Proviamo andare a Santa Teresa, ver se arrivo. Certo non arrivo come te, ma già arrivo. Già arrivo, non ti preoccupare. Massimiliano, lo passo. Oh fra, lo sto sfidando, appa, come c'è la pista giù, che tu ha? Quello era il discorso dell'altra sera, mio, Massimiliano. C'è un marinice, arrivo meglio lì a Santa Teresa, forse, non ci sono dubbi, ma i medici non arrivo. Io ho sempre parlato con Santa Teresa, con Capotesta però, forse giù in basso non ci arrivo, ma su con Capotesta già parlo. Ma in banda cittadina? Alla grande, guarda, peccato che è morto, se no l'avremmo telefonato, te l'avrei fatto dire. Va bene, va. Sei fortunato, va. Sì, poi, fortunata lì, non me lo potesse a me. L'importante è arrivare, poi. Capito? L'importante è sempre arrivare. Poi non è importante tutto il resto. Vero, Vanino di Sorso, Vanino Pantera. Sì, vabbè, di là mi raggio sempre. Meno delle altre volte, ma già ce li ho sempre. Mi cominci a tavannuta se mi fai il cavetto per i 4,40, mi dal... dello spinotto te lo do io. Già hai capito la roba, c'è da 2100 a 4,40, e uscì lo tenimo pronto, che già lo so cosa sai fare tu. Voglio fare male, dai. Lo tengo pronto solo così, dai, per fare qualche scommessa ogni tanto, capito? Perché l'ICO, ma potrei anche farlo con l'ICO, ma non mi fido, dai. Meglio farlo col 4,40. No, lasciala così, Vanni, ti sta ascoltando col baracchino, sei perfetto. Uscendo molto meglio di prima, di quando ci riprima. Io ti ascolto un po' in passato. No, così è peggiorato, così stai migliorando. No, così va bene, lasciala così che va bene. Capo, no, già va bene adesso con me, anche vicino già va bene. Bella aperta che ero la Sì, io lo sento benissimo, alla grande, nonostante stia usando il baracchino, lo sento bene, non c'è problema. Ehi, caffè di Giurovici vai, il nostro dottore ci dà Massimiliano, vai Giurovici. E cosa? Cosa fa? La radio serie. No, ma già ho prima di Massimiliano radio serie, ma non mi ha fatto nulla, tranquillo, ma potrei anche comprare quella Massimiliano, ma il comprarla è metterla dentro l'armadio. Capito? Questo è omologato e uso questo. Non si sa mai, capito? Che ci sia sempre qualcuno che voglia fare del male. Allora, usiamo il baracchino come usiamo tutti. Baracchino però, omologato. Ma per quello stiamo usando tutti l'omologato. Ma io uso sempre il 4,40 e il 4,30. È ora che mi decida di usare anch'io il baracchino come usate voi, no? Quindi. Poi quando serve magari commuto, non devo cambiare antenna e niente, c'è il commutatore, tic e tac. Va bene, chiusi i discorsi, davanti a chi tocca, Natalino riprendi. Break. Avanti Gianni, hai messo a posto? Gianni, che ha già? Ah, Roberto sì, vabbè, sembrava Gianni, con questo baracchino arrivavano tutti a fare la scala. Va bene, buonasera a tutti, ho sentito a te Claudio di sfuggita, poi gli altri non ho capito chi c'era, avanti. C'è Franco da Sorso, Massimiliano dalla Spuntas, Natalino, Vannino da Sorso e Gianni doppio rumo che penso stia cambiando la batteria al microfono, riprende e vai che per chi vuoi. Ehi, buonasera a tutti. Dai, chi c'è? Franco, vediamo un po' se ti ascolta, avanti. Certo che ti ascolto, vabbè. Ok, Natalino, aspetta che non ho capito, sono un po' più basso degli altri, chi sei, avanti? Qua di Santiago, la radio non è 5, un po', diciamo 4 si dovrà. Ah no, ti ascolto, non ti preoccupare. Poi chi c'era? Natalino non l'ho sentito, avanti Natalino. Natalino deve essere quando devo gollare a Ugani. Ciao Roberto, buonasera, non so se mi ascolti a me. Beh, basso, 9, quasi più 20, sì. Ciao Massimiliano. Ciao Roberto. Ciao Roberto, ciao Massimiliano. Ciao Gianni, chiacchia tutti i voti, tutti i segnaloni ci avete. Cosa avete combinato? Manco da un po', ma tutti cacchio 2000 watt in antenna. Avete parlato in due, Gianni, forse è entrato Natalino, avanti Natalino. Ma non era Natalino, ero io, scusa, ho già, forse ti ho parlato sopra. perché io sono al minimo in radio, capito? No, la radio è fortissima, quella di Gianni era bassina, avanti Gianni, di nuovo, scusa. Beh, perché sono lontano dal microfono, guarda adesso come va. Sì, un po' più alta, adesso è più forte, però sembri molto lontano parlando, c'è un leggero ronzio sotto. Sì, perché c'è la batteria che si è scaricata, ma non è un batterino che ho controllato, ne ho un'altra, ma mi dirà che la mia figlia vedesse, va bene. Eia, ok, Vannino avanti a te. Eia, ok, e tu come mi ascolti dalle tue zone, Vannino? No, no, parlo di radio, segnale per l'attivo, importante mi ascolti di pulizia. Ok, ho chiamato Natalino, ho rilanciato, ma Natalino è deceduto. Avanti Natalino, vai là. Sì, eia. No, il mio è tranquillo, 948, grandissimo, ti mando la fotografia. 948 con il microfono di tavola, vabbè, non mi piace dire niente così. Applicate in mano, però al 48, 5 watt, 8 modulati, va più che bene, già ti sento magnificamente bene. Avanti Gianni, doppio rumo, le prendi. Mi sei bruciata la ciuca, 8 modulati l'abbiamo logata. Non ho capito. Ho detto che sei bruciata la ciuca, ho detto 8 modulati, non è omologata. Sì, così dal baracchino, questa è una da 48, ci mando la fotografia, è normalissimo. Sono 5 watt, l'importante è bianca, un po' si muove, va 7, 8. So. E così è, si muove un po', cosa vuoi dire? Sempre di covate, so, poi P e P saranno un po' di più, ma comunque, sempre omologato, capite? 48 normale, vecchio stampo, quello che piace a Massimiliano, lui fa modificare questi. Oh, vabbè, allora sarà senza P e P, comunque, di covate, so, chi ti ha da voi? Chi si risolve più sarà il microfono che pigli, cosa vuoi dire? Va bene. Avanti, capo e bugnetta. E anche questi P&P sono le più basse, più o meno, va? Tu ti sei dato in più, te già i ciccioni. Io questo già lo sai, cioè, sono l'originale, sta radio. Non è che l'ho toccata. Già lo so, è originale, te l'ho provato. Va molto bene, meglio di questa, però. Capito? Va bene, va bene. Manda le ciance, avanti, Franco, riprendi. Io così leggo qua, 5 watt sono poi di modulazione da 7 a 8, si sposta un po' in avanti, ma già va bene lo stesso, importante che sia il baracchino. Ok, Franco riprendi. In qualche momento non sta riuscendo, Franco, c'è un rosio forte, proprio alternato, probabilmente non hai schiacciato bene il PTT. Sì, io. Ma come ho detto, qualcuno mi ha schiacciato sopra, oppure non me lo sono accorto. No, non parlo di sovramodulazione. Probabilmente ci sentiva la voce, però era un po' schiacciata. Adesso è tutto a posto, comunque, tranquillo. Ok. No, vabbè, ma non era Franco qua, no, per 9.5, 9.10. Non era Franco. Se non era Vannino che ha schiacciato assieme a lui. Capito? Che c'è quel rumore. No, vabbè, Vannino è molto più basso. Franco arriva a 9.10, Vannino è 8 qua. E anche a me 8 e 9.10, uguale. Ma Natalino non c'è più. È un po' grattata di venire con Franco. Però già esci bene, mio Vanni, non ti preoccupare, già stiamo va bene. Non lo so, Natalino, abbiamo chiamato un paio di volte, non ha ripreso. Natalino, riprendi Massimiliano. Sì. ci ha notato Massimiliano. Allora riprendi tu Gian. Sì, qua c'è l'altro che rispondi e vado a prendere questa battaglia se ce l'ho. Ancora male il progetto? No, adesso sta andando bene. Ascolta, ma la radio adesso è forte? Sì, sì, come sempre, normale come sempre. La lava la pagliata. L'altra volta abbiamo messo tutti. Ma non penso sia questione di batteria, già. Tutti non modulare così, già va bene. Sì, allora, eravamo un po' di tempo. Sì, vabbè, non è spaventato. A me l'altro giorno sono entrato per due giorni consecutivi. Poco tempo e problemi più importanti. Già, però la radio già va bene, però io sento un ronzio sotto. E poi sembra che c'è un leggero riverbero, c'è un effetto cattedrale attaccato. Controllo. Scusa, quello del tutto, voglio sentire una cosa. Sono. Non parlare, si manda solo portante. Grazie, avete parlato in due, manda solo portante già. Aspettate, siete in due che parlate, non si comprende nulla. Manda solo portante già. Adesso è ripulito, proprio qua parlando sentivo un leggero ronzio e poi una ventola in lontananza. Ok, riprendete voi che c'è una telefonata in arrivo, scusate un attimo. Calma, va bene Roberto, mi sembra che ci sentiamo. C'è gente in FM, capito? Ho visto, mi arrivano nove. Ok, tutta là. Precision Series, normale, non dorata, l'avrà comprato un amico mio, se l'ha messo in macchina, da quanti anni me l'ha regalato, c'ha 10 anni questo apparato, 10-12 anni. No, ho capito che è originale, però dietro, dico, il telaietto, è argentato o color dorato? Cosa devo dire il telaietto? Il coperchio è grigio. Dietro. C'è la targhetta, il sottofondo della carcassa, diciamo. È dorato o argentata? Boh, aspetta, me lo guardo. Ehi, mia la sento bassa, la sento più bassa dell'altra. Forse perché ti ho sentito con l'altro adesso e hai sparato e adesso magari senti cosa c'ha, il microfono normale. Ma se metti la 10. Dimmi Roberto. Argentato. Argentato, capito. E perché cosa cambia argentato e dorato? Il DLL cambia da quello argentato a quello dorato. E cioè è meglio qui? Poi diciamo che si presta di più quello con la serie dorata, però anche quello va bene lo stesso. Il mio è nuovo nuovo, mi proprio non è mai stato toccato e utilizzato pochissimo tra l'altro, perché io utilizzavo sempre il patch, quello base, poi c'ho il Royce, c'ho altri due o tre baracchini, c'ho due Intec, poi cosa c'ho? Vabbè, altri baracchini più piccoli. Ho capito, quello diciamo con la serie dorata c'ho il 7120, capito, come DLL. Ciao Frana, buona serata, buon tutto, io qui a più per fare il passaggio poi. La Pandora. Hai sentito già quel 3009, il tuo microfono del DPC? Quello che stavi usando poco fa? No, quello che già aveva Claudio da poco. Ah, sì, lo sento, va benissimo. Esce bene, no? Anche normale. Via, sì. Ah, perché si può fare sia normale che... diciamo con la produzione. Basta chiudere tutto l'eco e la cosa va bene, ho visto l'ha regolato, andavamo un po' le fresche e non è fatti fuori, no quello che l'avevo fatto, quello l'avevo fatto a Milano, ci soccombra, chi è il breco, avanti, mamma mia. Allora, ciao già, buonasera, ben ascoltato, dai. Vai, fallo il fuoco, fallo scaldare un po' che sei tutto rimpatto. Ciao, passi immediato. Ciao, oddio. Ehi, deve abbassare un altro pochino che sei tutto rimpattato. Capito? Gappa, gappa. E poi Giulio, buonasera, mi ha ascoltato anche a te. Ciao, passi immediato. Buonasera anche a te e a tutti gli altri amici. A Gianni, a Roberto e a Gianni di Mulos. Vediamo un po' se ha sistemato la radio, Gianni di Mulos. Avanti Gianni, aggiusta la radio, perché non va bene per niente. Manuale. No, confermo che è ancora bruttissima. Forse deve scaldare, non lo so, comunque non va bene, dai. Sistema, lascialo scaldare un pochino, vediamo un po' poi, col prossimo passaggio si migliora. Avanti Roberto, con la buonasera. Giù forse aveva una bassa, capito? Una bassa aveva. No, non ti ascolto bene io, Capri. Sistema un po' e... un pochino, avanti già. Ha toccato qualcosa, usciva così forte, così bene, ma che ha fatto questo esame, Capri 2? Ma è un po' più chiara, ma non è chiara, ma va. Apri un po' il coso, ma chi è? E prova a metterla bene, adesso va bene, vero Massimiliano? Se aumenta un altro pelino magari si chiarifica la radio ancora, aumenta un altro pelo. Ha peggiorato. Un po' così, ora fa forse perché la radio è un po' fredda, va. Vado a scaldare un pochino, vedo un pochino, va, se migliora. Signori, io vi ascolto volentieri, ma mi stacco un secondo, che sto facendo una cosettina qua, riprendi giù. Ok, ma ci vediamo, d'accordo. Non mi dici niente, la mia radio evidentemente già va bene rispetto a come era l'altra volta, cioè avevo fatto la regolazione e l'ho lasciata sempre così com'era con Claudio. Va benissimo. Sì, Gianni Capri 2, ancora non è buono la radio, dai, prova a lasciarla scaldare un pochino e vediamo un po' se migliora poi l'emissione radio. Ci sentiamo dopo il Massimiliano eventualmente, prima di chiudere farò un salutino, se sia ancora l'ascolto, lo sentirai senz'altro. Riprendi intanto Gianni Capri 2, vediamo un po' la radio se l'hai sistemata. Buonasera Giulio. Ciao Gianni. Brecco. Era indietro, è appena preso come era poco fa, che mi migliorava. Brecco. E Roberto ha finito. Prova a vedere, capito, porta la pedina indietro. È un po' meglio. Prova a fare appena ancora. No, vai avanti ancora. Sì, ma no, c'era la prima, ho risposto al telefono. Ciao Gianni, no, volevo salutare a Giulio che sono da tanto e non ci sentiamo. Ciao Giulio, avanti. Ciao Roberto, ben ascoltato. In effetti è un sacco di tempo che non ci sentiamo e non ci siamo nemmeno più visti, per cui vabbè, capiterà un giorno di rincontrarci. Riprendi di nuovo, Robe, vai. Sì, a quando vuoi giù, quando vuoi passa, già lo so dove sto. No, capi, ti stavo ascoltando anch'io, non mi piace, rispetto all'altro giorno hai peggiorato parecchio, riprova a parlare e poi vediamo, facciamo confronto. È un po' troppo così, non è chiarissima, diciamo, si capisce, ma non è una voce chiarissima, la modulazione sembra un po' troppo satura, secondo me. Adesso è peggio, adesso è proprio strappata, diminuisci un pochettino, non so cosa stai toccando, non lo so, stai parlando troppo attaccato con la bocca. Che microfono hai? Ma non è amplificato questo. No, ascoltate, ti ascolto, però non è una modulazione bellissima, diciamo sufficiente ma non chiarissima, dai. Ti ho ascoltato molto meglio l'altro giorno. No, non ho migliorato per niente, lo prendo io. Però beh, ti volevo chiedere, non è che ti serve una sega a nastro? No, non a comprarla, te la regalo se la vuoi. Già ci può essere utile in officina, magari. Ciao a voi, vieni, te la prendi. Ci vuole la gru naturalmente. Ma è grande questa? È grande, è una delle più grandi, se non addirittura la più grande di tutti. Per cui pesa parecchio, parecchi quintali. Non lo so quanti quintali, ma penso 6, 7 quintali, 8 forse, non lo so. Addirittura, ma in un motocarro non si può mettere. No, ci vuole la gru per sollevarla, come fai? Ci vuole un camioncino con la gru, di quei camioncini che abbia la gru. È a 380 però, è la vuol funzionamento. No, vabbè, già a 380, cioè, dimmi una cosa, quanto è alta questa cosa? È alta, diciamo, la parte alta della ruota sarà intorno ai 2,40 metri, suppongo, una cosa del genere. 2 metri quindi è alta, cazzo, ci vuole un camioncino. No, pensavo fosse una cosa più piccolina, cazzo. A chi lo posso dire trovare un camioncino con la gru? Pesa, hai detto 5 quintali. Minimo, è tutto ghisa, ti puoi immaginare, per cui stando a quello che mi avevano detto altre persone, dice peserà intorno ai 5, 6, 7, forse anche 8 quintali, che lo sa, boh, non lo so di preciso, so solo che ci vuole una gru, è una gru discreta anche. Non uno di quelli da tre soldi, una gru discreta, è un camioncino ti vuole. Adesso ne parlo con mio fratello se c'ha qualche amico, cioè no, io pensavo fosse una cosa più piccola, ma è funzionante questo. Beh certo, se no avrei chiamato un marcito a portarsela via, dove, cosa ti davo, una cosa che non funziona. Ha un motore a 4 cavalli, mi sembra che sia, ti puoi immaginare. Completa di lama, cioè funziona, pronta a usarla questa. Noi molte volte tagliamo palauti, cose così, ma per farli a pezzettini. Ah beh, la roba di plastica sicuramente, questo non ci sono dubbi. E naturalmente non puoi tagliare il metallo, ma la roba di resina, quello sì, palauti, resina, queste cose qua, senz'altro va bene, non ci sono problemi. Ma ne parlo con mio fratello, può essere interessante, ti ringrazio in anticipo, anche se vuoi per dire, devo prima parlare con mio fratello se riusciamo, gli dico se ci può interessare e se riusciamo a trovare un camioncino per prendere, ma ce l'hai a lavoro, il tuo falegnameria? Sì, perché lo sto togliendo tutto, lo sto svuotando, capito? E dunque la devo togliere quella, perché il mio cuore è il magazzino che devo fare l'ufficio, devo fare. E stavo dicendo, eventualmente se fammi sapere, dai, così se no al limite poi chiederò a qualche altro, se non la prendi tu chiederò a qualche altro, Roberto. Assolutamente, nel sì e nel no ti faccio sapere, grazie in anticipo in ogni caso che mi hai pensato. Ok, vediamo a Capri cosa è successo, va. Ma dimmi una cosa, ma tu a quanto come ce l'hai attaccato troppo la bocca questo? Perché in certi momenti sembra chiara, in altri momenti sembra che ti stai schiacciando le labbra. Sei troppo lontano, già ti ascolto ma sei troppo lontano. Ma stai caricando con qualcosa la tua potenza. Adesso dove dici dei momenti sembra che stai saturando. Chiedo conferma a Giulio, prova tu giù come l'ascolti. No, lo sentivo molto meglio ieri, l'ultima volta che ci siamo sentiti, Gianni. Era perfetta la radio, adesso è brutta, non mi piace, sì, si capisce tutto quello che dice, questo d'accordo, non è così debole come il volume del radio, però non è chiara, non è bella, insomma, ecco. Quei giorni scorsi era bellissima, ma adesso non è come prima, vedi un po', non so cosa stai usando, se è la stessa radio o se prima ne hai usato un altro, non lo so Gianni, riprendi tu e poi fai girare per Gianni Doppio Rui dopo, dai. Ma scusa, non per dire Gianni, io non voglio fare il criticone, e tu stai dicendo benissimo, hai trovato un apparato che dice benissimo, che motivo c'è di utilizzare un apparato che ti sta dando problemi? Adesso in questo passaggio non era buona la modulazione, è peggio di prima. Dico, una volta che hai trovato gli abbinamenti, non toccare niente, rimaniti così. Io ho l'apparato, uso sempre quelli lì, regolati, non sto ogni giorno muovendo, girando. Poi, scusami se mi permetto Gianni. Sì, sono d'accordo, ma li accendi, però non mi piace la modulazione. Forse non è adatto per trasmettere in AM su questo tipo di bande, non lo so io, non lo conosco, però non è una modulazione buona, cioè buona, sufficiente, sì, comprensibile, ma non niente di particolare, cioè un baracchino si sente meglio, in parole poche. Ok, adesso siccome stiamo monopolizzando vorrei fare un giro di nuovo, c'era Gianni che poi farà girare, vediamo un po' se è rimasto qualcuno. Gianni doppio K, vediamo chi è rimasto, c'è Roberto da questa parte, Giulio, Gianni doppio room, Gianni da Muros, vediamo chi c'è, avanti gli altri. Mi pare che non c'è nessuno. E tu Giulio cosa stai utilizzando? Io sto utilizzando un 360 Superstar con l'MB4 come microfono, regolato a 5 watt di potenza, per cui non so, dimmi com'è la radio, ma mi avevano detto che era buona, adesso io non è che mi sento, cioè mi sono ascoltato in cuffia l'altro giorno. E sembrava che va bene, le condizioni sono le medesime di quelle che abbiamo fatto la regolazione la volta scorsa, non lo so, dimmelo tu com'è. No, la parte mia è perfetta, eccellente, ti do pieni voti, dai. Radio chiara, pulita, non ci sono effetti strani, rumori di sottofondo, ottima radio, niente da eccepire. Ok, è una radio vecchia, avrà 30 anni, boh, adesso 25-30 anni, molto vecchia, un 360 che avevo buttato da una parte e da due ne ho fatto uno, ne ho messo in funzione uno, poi naturalmente gli altri l'altro mi è rimasto come pezzo di ricambio, ma sicuramente lo butterò, tanto cosa me ne faccio. Va bene, allora tutto bene, dimmi piuttosto, notizie hai di Giulio Muritu, hai notizie? Allora, io ho sentito il genere, una decina, no, forse di più di giorni, perché ero partito 2 giorni, poi una quindicina di giorni fa, dice che lo dovevano operare per fargli questo lavoretto qua, questo bypass, comunque dice stava abbastanza bene, novità non ne ho, però mi informo, lo chiedo al nipote, a Giulietto piccolo, mio cognato, e ti faccio sapere. Ok, no, a me mi hanno detto che gli hanno messo 4 bypass, dice che gli hanno messo. L'altro giorno mi ha detto quello delle pille, amico mio e amico anche di soprattutto di Giulio, anzi più di Giulio che mio, quello che aveva la pelletteria lì in via Gabriele D'Annunzio, sì, te lo conosci, Roberto, il casolaio, diciamo, dai, lo conosci. Sì, non personalmente, nel senso so chi è, capisco chi è, però non è che sia amico mio, lo conosco tramite mio cognato, i cugini, i nipoti, diciamo, se me ne parlavano di questo qua. E appunto lui mi aveva detto, io non lo sapevo nemmeno, ci siamo incontrati per strada e mi ha detto, no, niente sai di Giulio, per cosa dovrei sapere di Giulio? Infatti c'è stato ricoverato e dice gli hanno messo 4 bypass. Boh, non ho saputo niente, io sono da un po' di tempo senza vederlo, Giulio, anche tempo fa mi aveva dato anche una mano a fare delle saldature, perché avevo costruito un ponte che mi serve per arrivare all'altezza dei 4 metri per sostituire una guida della persiana di casa che è all'altezza dei 4 metri, scorrevole, e devo cambiarla. E avevo dei dubbi, non sapevo cosa fare, siccome ho anche la saldatrice e mi sono messo a saldare, però poi per sicurezza ho fatto dare una controllatina a Giulio che lui sa saldare bene, sai, perché se uno ci sale sopra non vuol dire che ci staccasse magari un ferro, capito? No, adesso è a posto, capito? Capa, mi devo notare un attimino, devo rispondere al telefono, scusatemi. Ok, vai Robert, non ci sono problemi. Avanti Gianni Capri 2, ma mi sa che siamo rimasti solo noi due. Gianni Capri 2, non c'è nessuno, Natalizio si è d'ascolto. Giulio, buonasera. Salvatore. Ciao Salvatore, ben ascoltato, di quanto tempo. Tutto bene, sì. Io passo sempre lì dalle tue parti, vedo sempre le tue antenne, però a te non ti vedo mai, giustamente perché sei al lavoro. Sì, è così, è così. Poi la sera, se c'ho un po' di tempo, come stasera, faccio i miei giri in HF e adesso stavo sistemando, facendo degli accordi dei vari dipoli e ho detto, esci, vediamo se c'è qualcuno nella 27, passo, li saluto e così ho trovato a te e ho sentito poco fa che c'era Gianni e qualcun altro che però con il dipolo non riesco a sentire perché sono con il dipolo. A te Giulio. Ok Salvatore, sì anch'io sto andando con il dipolo, ma già ti sento bene lo stesso, non ci sono problemi, sta arrivando Santiago 9, io anch'io sto usando un dipolo in verticale e poi anche molto basso, non è l'antenna nella posizione diciamo dove era prima, che era alta almeno 5 metri più in alto, adesso è a livello pavimento, è un metro dal pavimento, racchiusa fra quattro mura del terrazzo, per cui è un dipolo in verticale che avevo fatto, perché la mantova tubo ce l'ho sempre, però l'ho sdraiata nel poggiolo, che è un poggiolo lungo di 8,50 m per lato a casa, e dunque l'ho lasciata piazzata lì, cioè a parte il radiale naturalmente, parlo dello stilo centrale, è sdraiato lì, anche perché non l'ho voluto smontare, ossia che si rompe, sai, si usa e poi vai a attaccare il capace che allora mi fa innervosire e devo tagliare, la butto via, invece in quel modo la lascio intera e tanto fastidio non me ne dà, è sul mansarda, nel poggiolo del mansarda, e problemi non ce ne sono sabato. No, io la mia si ammazzo ben bene di verticale, la Game Master, adesso sono in attesa di sapere se mi mandano il cavo centrale di ricambio e niente, un altro amico mi ha proposto di mi darebbe anche la sua mantova, però volevo vedere un pochettino se per caso comunque riuscivo a rimetterla a posto questo. Va bene, giù, mi ha fatto piacere di sentirti, salutoni a te e tutta quanta la truppa quando li senti e porgi i miei saluti. Buon proseguimento di serata, ciao ciao da Salvatore, ciao giù. Ok, ciao Salvatore, anche a me è stato un piacere di ascoltarti. Sì, anch'io infatti sto usando né più né meno un'autocostruita tipo Game Master, dai, una cosa copiata dal computer. Diciamo ho messo mano, l'ho fatta e funziona esattamente. L'avevo messa lì per fare le tarature, le prove, il tarrazzo, e lì ho visto che funzionava ugualmente, l'ho lasciata lì, per cui non ci sono problemi. D'accordo, ciao Salvatore di nuovo, salutoni, alle prossime, fate sentire ogni tanto da queste parti, in questa frequenza. Ciao di nuovo Salvatore, a risentirci, ciao. Eia, ciao giù, ciao ciao, infatti ogni tanto un saltino a salutare lo faccio. Ciao, buon proseguimento. Ciao ciao Salvatore, alle prossime. Attento Gianni di Mulos, ci sei? Adesso sei più forte, però ancora non è perfetta la modulazione, non era come l'altro giorno, però va bene, meglio sicuramente di prima, Gianni. Si è sentato per il telefono. Sì, abbassa leggermente il volume del mic gate, perché c'è il volume, dai. Mettila a 1 e basta, perché il 440 spinge, se no finisce che strappa. Va bene. No, va meglio, questo è meglio, come un modulatore è meglio dell'altro. Il 440 non si smentisce mai rispetto all'altro, cos'era? Il 101 mi sembra che avevi detto, buono, se ricordo bene. E questa è tutta un'altra musica. Fallo scaldare leggermente e poi vedrai che ti sentirò come ti ho sentito quei giorni scorsi. Ok, sì, beh, è tutta un'altra cosa, eh. È tutta un'altra cosa Gianni, senz'altro, non ci sono dubbi. Questo va molto meglio. E tra una decina di minuti, quando ha preso un po' di temperatura, diciamo, mettiamola su questo tono, senz'altro funzionerà meglio, eh. Va bene Gianni. No, Roberto è al telefono, dai, già rientrerà appena finisce di telefonare. Eccomi di nuovo, questa è un'altra musica, confermi Giulia? Beh sì, gliel'ho già detto, è tutta un'altra musica, certo, appunto ho detto lascialo prendere un pochino di temperatura e migliorerà ancora molto. Basta che il volume non lo tenga troppo alto. Metterò a 1, lo già a 1 sempre, 4,40 a 1, io quando uso 4,40 lo metto a 1 ed è eccezionale, va benissimo. Se lo metto leggermente più di 1 già siamo sull'orlo dello strappo, per cui va bene, mettilo a 1 e va a meraviglia. Ne prendi Gianni? Ma per dire, per quel poco di esperienza che ho io le ho sentite diverse, di come gli AESO, il migliore apparato per la 27 e 440 come modulazione, 140 purtroppo c'ha problemi di ricezione, un po' rumoroso, però l'apparecchio più equilibrato, con la modulazione migliore, pieno, c'ha una bella ricezione, c'ha tutto il 440. Ok Gianni, sì, questo qui è un dipolo in verticale. Guarda, io ti do subito un'indicazione. Tu lo scrivi sul computer, ce l'avrai sicuramente. Scrivi Game Master, cioè costruzione, Game Master spiegazione. E lì ci sono tutti i parametri necessari per poterla costruire. Ti dà l'indicazione perfetta. Tu fai quelle misure. Guarda, se l'ha fatta anche un altro amico. Proprio ieri l'ho sentito ed è una meraviglia, cioè, esce benissimo, veramente bene. Vedi un po' tu Gianni, te lo ripeto, tu scrivi sulla tastiera costruzione Game Master spiegazione, aggiungi quella parola spiegazione e c'è quello che ti spiega come l'ho fatta. Io l'ho fatta e funziona una meraviglia. Oh Gianni, riprendi e fai girare per Roberto, vai. Ma puoi fare anche con la DG58, no, bracci non ce ne vanno bracci, ci va una bobina, la base, ci va con un capo coassiale che può essere anche la DG58, però è meglio se metti l'H155 e poi tutto questo per un'altezza di 3,50 m, una cosa del genere, ci sono tutte le misure, ti dice tutto il computer, e poi anche 3,50 m di filo unipolare, ed è quello da 2,5 va benissimo, va bene anche da 1,5, se puoi lo mettere a 3 va bene lo stesso, non ci sono problemi, c'è tutte le misure, tu apri il computer e non puoi sbagliare Gianni, e va bene, guarda, diciamo 1,1 di stazionari e su tutta la gamma 27, niente interferenze, tutto va qui, veramente bene, guarda. Sì, sono antenne semplici ma molto efficienti, anche io confermo, la platamona l'avevo fatta tanti anni fa, nel 2002-2003, no vabbè di più, facciamo 2005-2006, ti posso dire, io avevo la Grand Plain lì, c'era un sacco di stazionari, forse il mare, non lo so se cacchio c'era, il palo era forse un po' basso, io ho montato con l'antenna lì a canale a pesca, un segnalone a Sassari arrivavo quasi 9, mi arrivavano tutti i segnali 9 da Sassari, con un baracchino normale, senza niente, poi vabbè, ho provato Giulio 5 minuti quel linearetto che mi avevi dato tu e avevo disturbato mezzo mondo perché ancora c'era la televisione analogica, come aveva attaccato quello, scomparsi i segnali perché lì sono tutte antennine una attaccata all'altra, però con i 4 watt, 5 watt dall'apparato riuscivo ad arrivare a Sassari, qualcuno mi ascoltava 9. Sì, vabbè, certo. Sì, ma è così, no, tieni presente Robert, che ce l'ho anche bassa, non è al posto dove c'era prima la turbo, no? Prima la turbo era 5 metri più in alto di dove è adesso questo. Questo qui è sul terrazzo, ti puoi immaginare, con un metro di tubo, di palo, poi tra l'altro è chiusa anche fra le quattro mura del terrazzo. Perciò se dovessi mettere dove c'era l'antenna da mantova turbo, sicuramente migliora molto il segnale, almeno il segnale sicuramente migliorerà, vedi un po', dimmi il segnale da te com'è, così per curiosità, non è che mi interessi più di tanto, però per curiosità da te il segnale com'è? Sei quasi 9 più 15 qua, c'era però qualcuno che ho sentito che ha parlato prima di te, non ho capito cosa ha detto, scusa un attimo, non vediamo di capire cosa dice. E chi sei, scusa? Ciao. Non ti ho capito, scusa, ti avevo parlato sopra, chi sei, scusa? Ah, va bene, Valerio, buonasera. Qua c'è 9 più 10, radio molto forte. Non so se mi ascolti tu, riconfermo. Roberto Quadrato, qua da Sassari, vicino a Claudio sono, a Sparviero. Vediamo se ti ascolta Giulio, lui è dall'altra parte della città, verso i punti. Sì, lo ascolto a Valerio, ci sentiamo sempre, ci sentiamo. È lui che mi sente basso a me. ma io sono 5 watt va lì, dunque non so se oggi hai poco QRM, mi sentirai ugualmente. Se c'è QRM lo so benissimo che fai fatica ad ascoltarmi, anche perché io per Alghero, nonostante sembra una zona aperta, ma in realtà qua non è proprio aperta per niente, perché c'è il Monte Oro, c'è davanti, e dunque devo scavalcarla, o dovrei essere il più in alto per scavalcarla, ma sono in basso, non ci sono problemi. Avanti Valerio, se mi hai ascoltato, con la buonasera, Giulio che ti saluta. Valerio, l'hai ascoltata Giulio? Lo so Valerio, lo so che è difficile ascoltarmi lì con l'antenna che ho, e dunque poi anche bassa, se la metto più in alto magari, ripeto, già riesco ad arrivare lì. Se dovessi metterla dove è il suo posto, diciamo, 5 metri più in alto, allora il discorso cambierebbe molto, ma adesso nella posizione in cui si trova l'antenna non va bene per Alghero. Sono sempre stato in una posizione un pochino critica io per Alghero, non è stata mai una buona posizione da parte mia verso Alghero. Non lo so, anche Salvatore Mezza nella stessa storia. No, c'era qualche altro che voleva entrare qui a parlare modulato, avanti. Giulio, vabbè dai, riprendo io. Giulio, ma tu hai cambiato antenna per quale motivo? Non avevi la turbo tu? Ce l'ho sempre, vabbè, non ci sono problemi. Poi l'ho smontata, l'ho tirata giù e mi sono voluto così direttare a fare questa antenna così. L'ho tolta soprattutto perché la notte d'inverno quando succhia vento è una tragedia, non si può. Troppo rumore o robe. Allora l'ho tolta per quel motivo lì. Però ce l'ho, è nuova, poi quella ce l'avevo. Ce l'avevo se non un anno, è tutta nuova. Sai come quando l'ho presa, non ci sono problemi. L'ho messa in distesa così nel poggiolo della mastarda, su in alto, il poggiolo è lungo 8,50 m, l'antenna 7 metri, l'ho svoltato le radiali e la base, le ho messe da parte, le ho messe tutte insieme, le ho messe da parte. Ce l'ho sempre, però non la sto usando più. Magari si può utilizzare l'estate quando le giornate sono belle, che non c'è vento, eccetera, ma d'inverno non è possibile o robe, troppo rumore, fischiano, è una meraviglia, guarda, durante la notte. Io ho capito. Ok, adesso vediamo Gianni Di Muro, se lo ascolta. Valerio, avanti Gianni. Vabbè, lui ne ha 300, però se non lo sento nemmeno io a lui. Sta parlando già. Giù Giulio quello. Una domanda a Valerio, volevo dire che antenna stai utilizzando, che apparato e che potenza. Dimmi un po', il rapporto di segnale mio me lo puoi dare, vabbè, diciamo non è precisissimo con la 48, io ti ripeto sei quasi 9 più 10 qua, confermami il mio rapporto di segnale e la radio soprattutto, come mi ascolti. Ok, va benissimo. Mentre Muros, come l'ascolti, diciamo, che segnale, per fare un confronto, vedere come arriva Muros rispetto a Sassari. Ah, quindi c'è una grande differenza. No, pensavo fossero più alti i segnali a Muros. Vabbè, ci sono dei monti davanti che lo bloccano. Ok, io ti ascolto perfettamente, radio molto molto forte, amplificata, come deve essere, diciamo, come potenza, e segnale fortissimo, niente da dire. Considerando dove siete andando alla grande. No, lei, io sto dicendo quanto è me arriva, ma se dietro di me come fa a arrivare quanto è me? Uia. Col baracchino, Claudio. No, solo commutato al 440, la potenza 710 watt. Posso anche cambiare il commutare alla 48. Vi sto ascoltando, dai, ma non riprendo. Così proseguite, ci sentiamo domani. Ciao a tutti. Ha detto Cla che arrivi come me, ecco, tu col baracchino e io col coso. Buono, ho seguito. Va bene, proseguite, ci sentiamo. Ehi, a tu in quella posizione ammazzi a tutti, non viene mai nessuno, già lo sai Cla. Io solo più forte di te arrivo a Osilo, e buh. Oh, dimmi Gianni, perché sto per chiudere, l'ultima informazione, come arrivo io come segnale? Tu sei quasi 9.20 qua, 9.15 con picchi quasi a 9.20. Sì, riprendo io e così vi saluto anche. Ciao Claudio, intanto, ci sentiamo. Sì, vabbè, io chiudo, ripeto, aspetto la tua risposta, per no, per cui fammi un fischio col telefono e così poi decidiamo, anzi decidi tu, non io, devi decidere tu. alle prossime. Ciao Robert, ci sentiamo comunque, mi ha fatto piacere di ascoltarti. Ciao Claudio, ciao Valerio, se mi ascolti, ma sarà difficile. Ciao Gianni, Gianni di Mulos, e anche Gianni Doppio Russi se è all'ascolto. Saluto anche Massimiliano, che sicuramente è all'ascolto anche lui. Saluto a tutti, ascolto io il finalino di tutti e poi chiudo. Riprende di nuovo Roberto e io ascolto il finalino e poi chiudo. Ciao. Sì Giulio, riprendo anche io adesso chiudo e saluto di nuovo a tutti. Ok, ti ringrazio già per l'interessamento di quella roba lì, Giulio, ti faccio sapere nel sì e nel no. Ok, un piacere di ascoltarti, saluto tutti gli amici, Roberto da questa parte, saluto Giulio di nuovo, Gianni da Muros, Valerio da Alghero, Claudio se ci sta ascoltando, Doppio Rum, non so se c'è ancora, e Massimiliano, QRT da parte mia, buon proseguo a tutti, ciao ciao. Ciao a tutti, ci sentiamo.